Le piacevoli notti. Libro secondo di Giovan Francesco Straparola. Terza favola della nona notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Roberto Cofini. Isabella, a cui il terzo luogo di favoleggiare toccava, levossi in piedi e così a dire incominciò. Favola terza. Francesco Sforza, figliuolo di Lodovico Moro, duca di Milano, segue un cervo nella caccia e da compagni si smarrisse. E giunto in casa di certi contadini, si consigliano di ucciderlo. Una fanciulla scopre il trattato, ed egli si salva, e i villani vivi sono squartati. La favola raccontata da Leonora mi presta campo largo di recitarvi un compassionevole caso, il quale ritiene più presto della storia che della favola. Perché così intervenne ad uno figliuolo d'un duca, il quale, dopo molti affanni, fece patire agli lor nemici l'aspra penitenza del suo commesso fallo. Dicovi adunque che a tempi nostri si trovò in Melano il signor Francesco Sforza, figliuolo di Lodovico Moro, duca di Melano, il quale, e in vita del padre e dopo la morte sua, fu da invidiosa fortuna balestrato molto. Era il signor Francesco nei suoi prim'anni bello di forma, ornato di costumi, e il suo volto dimostrava segno di chiara indole. Indi, venuto all'età della florida adolescenzia, dopo i studi e l'altre buone operazioni, alle volte si dava all'armiggiare, a lanciare il palo e all'andare a caccia. E di questo assai si dilettava. Onde la gioventù per gli costumi e prodezze sue l'amava molto, ed ella era amata da lui, né giovane era nella città, che largamente non fosse guidardonato da lui. Il signor Francesco, un giorno per suo diporto, raunò molti giovani, di quai niuno aveva ancor tocco il ventesimo anno, e asceso a cavallo, se ne andò con esso loro alla caccia. Ed aggiunti ad un boschetto, dove dimoravano le fiere, quello circundorono. Avvenne che dalla parte dove il signor Francesco attentamente guardava, uscì fuori un leggiadretto cervo, il quale, veduti i cacciatori, per timore si diede al fuggire. Il signore, che aveva cuor di leone e stava bene a cavallo, vedendo il cervo velocemente fuggire, con gli sproni spinse il cavallo e animosamente si mise a seguirlo, e tanto lo seguitò che, allontanato dalla compagnia, smarrì la dritta strada, di maniera che, perduto il cervo di veduta e lasciata l'impresa, non sapeva dove egli fosse né dove andasse. Laonde, vedendosi solo e fuori dalla comune strada, né sapendo tornare indietro e sopraggiungendo l'oscurità della notte, alquanto si smarrì, temendo non gli avvenisse cosa che gli spiacesse, sì come gli avvenne. Continuando adunque il signor Francesco il smarrito cammino, finalmente aggiunse ad una picciola casa coperta di paglia e mal condizionata, ed entrato nel cortile, scese giù del cavallo, e per se stesso lo legò ad una siepe ivi vicina. Indi, entrato in casa, trovò un vecchiarello che non aveva meno di anni 90, e con esso lui era una contadina giovane e assai bella, la quale aveva nelle braccia una fanciulla di anni circa 5, e la pasceva. Il signore, dato al vecchiarello e alla contadina un bel saluto, si pose con loro a sedere. E di grazia gli addomandò che per quella notte gli volessero dare alloggiamento, non lasciandosi però conoscere. il vecchiarello e la femina, che gli era nuora, vedendo il giovane ben in ordine e di vago aspetto, molto volentieri l'accettarono, scusandosi tuttavia di non aver luogo che convenevole fosse alla persona sua. Il signore assai li ringraziò, e uscito di casa attese al suo cavallo, e, governato che l'ebbe, ritornò in casa. La fanciulla, che era amorevole, s'accostò al signore, e facevagli feste e carezze assai, ed egli all'incontro la basciava e la lusingava. Mentre che il signore, il vecchiarello e la nuora stavano in ragionamenti, sopraggiunse Malacarne, figliuolo del vecchio e marito della giovane. Ed entrato in casa, vide il signore che ragionava col vecchio e accarezzava la fanciulla. E data e ricevuta la buona sera, ordinò alla moglie che apparecchiasse la cena. E accostatosi al signore, la dimandò per qual cagione era venuto in quel selvaggio e inabitato luogo. A cui il signore, iscusandosi, rispose: «Fratello, la causa della venuta mia in cotesto luogo non è stata per altro, se non che, trovandomi solo per strada, ed essendo sopraggiunta la notte, né sapendo dove andare per essere mal instrutto di queste contrade, trovai per mia buona sorte questa picciola abitazione, dove da questo vecchiarello e da questa donna fui allegramente ricevuto. Malacarne, inteso il parlar del signore, e vedendolo riccamente vestito con la catena d'oro che gli pendeva dal collo, subito fece disegno sopra di lui, e al tutto determinò ucciderlo e spogliarlo. Volendo dunque Malacarne adempiere il diabolico proponimento, chiamò il vecchio padre e la moglie, e presa la fanciulla in braccio, uscirono fuori di casa, e tiratisi d'un lato, fecero tra loro consiglio di uccidere il giovane e, spogliatolo delle sue vestimenta, sotterrarlo nella campagna, persuadendosi che mai più di lui novella non si sentisse. Ma il giusto Dio non permise il malvagio lor proponimento avere effetto, ma con bel modo il loro trattato scoperse. Finito il trattato e il malvagio consiglio, Malacarne pensò di non poter solo adempiere il deliberato pensiero, perciò che il padre era vecchio e impotente, e la donna di poco animo, e considerava il giovane in apparenza essere di grandissimo coraggio, e potersi agevolmente difendere e fuggire. Onde determinò d'andare ad un luogo non molto lontano, e chiamare tre suoi amici, e insieme con loro eseguir il tutto. Gli amici, intesa la cosa e avidi del guadagno, lietamente accontentarono, e prese le loro armi, alla casa di Malacarne se ne girono. La fanciulla, lasciato il vecchiarello con la madre in compagnia, ritornò al signore, e facevagli maggior festa e maggior carezze che prima. Il signore, veggendo la grande amorevolezza della fanciulla, la prese in braccio, e dolcemente la carezzava e baciava. La fanciulla, vedendo il lustro della catena d'oro, e piacendole, sì come è costume di ciascun fanciullo, pose la mano sopra la catena e voleva mettersela al collo. Il signore, che vedeva la fanciulla della catena dilettarsi, tuttavia accarezzandola disse: «Vuoi tu, figliuola mia, ch'io te la doni?» E così detto gliela pose al collo. La fanciulla, che aveva inteso il trattato, senza dir altra parola rispose: «Ella sarà ben mia, perciò che il padre mio e la madre mia ve la vogliono torre e ammazzarvi». Il signor Francesco, che era savio e accorto, intese che ebbe le tristi parole della fanciulla, non le lasciò cadere in terra, ma da prudente tacque. E levatosi da sedere con la fanciulla in braccio, sopra un letticello con la catena al collo la pose, ed ella, perché l'ora era tarda, immantinenti si addormentò. Indi il signor Francesco si rinchiuse in casa e l'uscio con duo gran cassoni fortificò, aspettando virilmente quello che i giotti far volevano. appresso questo il signor trasse fuori un picciolo scoppio che a lato teneva e aveva 5 bocche, le quali unitamente e ciascheduna di per sé poteassi scaricare. I compagni del signor, vedendo mancargli il loro capo, né sapendo dove fosse gito, cominciarono a sonar e corni e chiamarlo, ma niuno li rispondeva. Per il che i giovani dubitarono che il cavallo, correndo, di qualche trabocchevole balzo caduto non fusse, e, conseguentemente, col patrone morto e dalle fiere divorato. Essendo i giovani tutti affannati, né sapendo che partito prendere, disse uno dei compagni: «Io lo vidi per questo sentiero seguire un cervo e tener la strada verso il vallone, e perché lo suo cavallo nel corso era più veloce che il mio, non li potei tener dietro. Onde, in picciol'ora li perdei di vista, ma dove se ne gisse non seppi». Inteso che ebbero i giovani il parlar di costui, si misero in via e seguirono tutta notte la traccia del cervo, pensando trovarlo o morto o vivo. Mentre che i giovani cavalcavano, Malacarne si accompagnò con e 3 scelerati amici e con esso loro venne a casa, e credendo senza contrasto entrare in casa, trovarono l'uscio chiuso. Malacarne col piede picchiò l'uscio dicendo: «O buon compagno, apri! Che fai? Che non apri?» Il duca taceva e nulla rispondeva, ma guattando per un pertugio vidde Malacarne con una sicura in spalla e i 3 altri ben assettati nelle loro armi. Il signore, che già aveva caricato il schioppo, non stette a bada, ma postolo ad uno pertugio disserrò una bocca e passò a uno di 3 compagni il petto, di maniera che, senza dir sua colpa, in terra morto cadde. Malacarne, questo vedendo, con la scure cominciò a percuoter l'uscio per gettarlo giù, ma nulla faceva, perciò che era ben puntelato. Il duca, senza indugio, disserrò la seconda bocca, e il disserrar fu di tal sorte che nel braccio destro ferì un altro dei compagni a morte. Sdegnati allor quelli che erano rimasti vivi, si misero alla forte per gettar giù l'uscio, e si fatto rumor facevano che pareva che rovinasse il mondo. Ma il duca, che stava non senza spavento, fortificava la porta con scanni, panche ed altre cose. E perché quanto più la notte lucida e serena, tanto più è tranquilla e queta, e ogni moto, ancor che lontano, di leggeri si sente, fu dalla compagnia del signor il strepito sentito. Onde, rinserati insieme e lasciate a cavalli in libertà le briglie, subito aggiunsero al luogo dove era il rumore e videro e malfattori che s'affaticavano a gettar giù la porta, ai quali disse uno della compagnia: «Che contenzioni e rumori sono questi che voi fate?» Rispose Malacarne: «Signori, io ve lo dirò. Questa sera, essendo venuto a casa tutto lasso, trovai un giovane soldato della vita molto disposto, e perché egli voleva uccidere il mio vecchio padre, sforciare la moglie, rapire la fanciulla e togliermi la roba, io me ne fuggii per non poter far difesa, e vedendomi a mal partito ridotto, me ne andai a casa di certi miei amici e parenti, e li pregai che mi aiutassero, ed aggiunti che fussimo a casa, trovassimo l'uscio chiuso e fortemente puntelato di dentro, di modo che non potevamo entrare, se prima l'uscio non era rotto. E non contento del forzo della mia moglie, ammi anco con uno scoppio ucciso, come voi vedete, l'amico, e l'altro a morte ferito. Onde, non potendo sofferire tanta ingiuria, io il volevo aver nelle mani, o morto, o vivo». I giovani del duca, udendo il caso e parendogli verisimile per lo corpo che morto in terra giaceva e per lo compagno gravemente ferito, si mossero a pietà e, scesi giù di suoi cavalli, si misero a gettar giù la porta gridando ad alta voce: «Ah, traditore! Ah, nemico di Dio! Apri l'uscio, che stai a fare? tu patirai la pena del tuo fallo!» Il duca nulla rispondeva, ma con ogni studio ed arte attendeva a fortificar la porta, non conoscendo però che quelli fussero ai compagni suoi. Dimorando e giovani in questo conflitto, né potendo per violenza alcuna aprir l'uscio, uno dei compagni, tiratosi da parte, vide un cavallo che era nella corte al siepe legato, e avvicinatosi a lui, conobbe quello essere il cavallo del signore, e ad alta voce disse: «Acquetatevi, signor cavallieri, e non procedete più oltre, perciò che il nostro signor è qua dentro!» E dimostrogli il cavallo legato al siepe. I compagni, veduto e conosciuto il cavallo, fermamente pensarono il duca essere dentro nella chiusa casa, e con grandissima allegrezza il chiamarono per nome. Il duca, sentendosi chiamare, subito conobbe quelli essere i compagni suoi, e assicuratosi della vita e dispuntellato l'uscio, aperse. Ed intesa la causa del suo chiudersi in casa, presero i malfattori e strettamente legati a Melano li condussero, e prima con affocate tenaglie furono tormentati, dopo, così vivi, da 4 cavalli squartati. La fanciulla, che Verginea si chiamava, e lo scellerato trattato scoperto aveva, fu dal duca data in governo alla signora duchessa, che la maestrasse. E venuta agli nubili anni, il rincompensamento di tanto beneficio, quanto il duca ricevuto aveva, fu in un gentil cavaliere con amplissima dote onorevolmente maritata. E presso questo le diede in dono il castello di Binasio, posto fra Melano e Pavia, il quale oggidì, per le continue guerre, è in sì fatta maniera distrutto, che non c'è rimasta pietra sopra pietra. E in tal modo, e tristi e sciagurati, finirono la vita loro. E la fanciulla col suo marito per molti anni felicemente visse. Fine della storia. Stava ciascuno di auditori non ben pietoso che attonito ad ascoltare la compassionevole novella, ma poscia che giunta fu a piacevole fine, tutti s'allegrorono, e la signora ad Isabella impose che l'enimma raccontar dovesse, la quale, con gli occhi ancor non asciutti, umilmente così disse: «Signori, el c'è una cosa qua fra noi che non si vede, e va, neppur si muove, anzi è partita, né più torna poi, e qui sta ferma e gira e non so dove. Molti e diversi sono gli effetti suoi, che, non partendo, se ne vola altrove. Qual alma fia di voi si ingegnosa che sappia indovinar questa mia cosa?» Grato fu a ciascheduno il dotto e arguto enimma da Isabella recitato, né vi fu alcuno della compagnia a cui bastasse il cuore di interpretarlo. Ma la prudente Isabella così l'espose: «Ciò è che era il mutabile pensiero dell'uomo, il quale è invisibile e va in ogni luogo, non però si muove dall'uomo. Egli sta fermo e va, e non si sa dove, ma volto in diverse parti dell'intelletto, non si muovendo, produce vari e infiniti effetti». Grave e sottile fu l'esposizione del raccontato enimma, né fu veruno che soddisfatto non rimanesse. Fine della terza favola della nona notte. Registrazione di Roberto Cofini.